mattino. Ascolta su Radio 24, Alino. Uno, nessuno, 100 Milan. Di Alessandro Milan con Leonardo Manera. Parla Londra. Trasmettiamo alcuni messaggi speciali. Felice non è felice. È cessata la pioggia. Ha mangiato i crocchini. La mia barba è bionda. Viale Monza è vuota. Giacomone, Leonardo alla vestagliona. Le scarpe mi stanno strette. Mojito fa le fusa. Rosso. L'aquila vola. Parla signori, parla Viale Monza. Sono Alessandro Milan, un buongiorno a tutti, questa è Uno Nessuno 100 Milan in onda fino alle 11 da casa. Oh, il sogno di Leonardo Manera si concretizza nel mio cuore, nel mio animo, nelle mie ossa, nelle mie membra, nel mio cervello. Sono da casa, effettivamente sì. D'altronde Conte lo ha detto, state tutti a casa, state tutti a casa, e allora eccomi qua, a provare a stare a casa. Davanti a me ci sono due tende, di là ci sono i figli, Angelica e Mattia, spero si comportino bene. Gli ho detto, mi raccomando, state di là, non aprite la porta, quindi faranno tutto il contrario di quello che gli ho detto. Io mi sono preparato anche, dov'è? Porca miseria, qui si perdono nelle postazioni radio da casa. C'era anche una tazzina, eccola qua. Insomma, perché non è che solo Leonardo Manera può godere di questo stare a casa, signori. Io sono a casa, quindi ve lo dico subito. 349-238-6666, questo è il numero per i vostri WhatsApp, ma oggi non vedrò WhatsApp. Non vedrò WhatsApp. Se volete mandarmi un SMS, sempre al 349-238-6666, io lo vedo in diretta. Grazie alla potente tecnologia di Radio 24, vedo anche e sento i vostri vocali, o meglio, li sente Lorenzo Nespoli, che ovviamente in maniera dittatoriale ho mandato lì in radio, a Radio 24. Li sente anche Miriam Lucchetti, che ho mandato lì in modo dittatoriale a Radio 24. Li sente anche Elisabetta Fusconi, no, che è forse dispersa in Svizzera. Vestagliona Manera sarà anche lui da casa, ma signori, ci siamo a tenervi compagnia con tanti ospiti. D'altronde, oh, che dobbiamo fare? Tutti a casa, questo è il motto? E allora, se tutti a casa è il motto, ho provato a vedere l'effetto che fa, come diceva Iannacci. Vai, Alpino! Enthusiasm about the future. Sì, c'è anche l'Alpino. A proposito, sai che continuano ad arrivarmi tante chiamate e tanti messaggi sulla dunata degli alpini. La dunata degli alpini quest'anno a Rimini. So che Alpino non mi puoi vedere, non mi puoi fare cenni, ma credo di non sbagliare. A Rimini. Quando ci sarà la dunata degli alpini? Ci sarà la dunata degli alpini? Non possiamo saperlo. È chiaro che viviamo tra coloro che sono sospesi, anche gli alpini si dovranno adeguare. Intanto avete sentito, cari ascoltatori, Radio 24, avete sentito ieri il presidente del Consiglio Conte, è tutto sospeso, i campionati anche sospesi, e lo dico apposta, volutamente parto dai campionati, perché dire ma come i campionati? Ebbene sì, sembra che i campionati, il calcio, lo sport non volesse adeguarsi alla situazione, e invece anche il campionato è sospeso, come tutta l'Italia si trova in questa situazione di dover restare, se possibile, a casa. Ieri molti mi hanno criticato a dire ma statene a casa, eccoci qua, va bene, avete voluto. D'altronde non lo dico solo io, lo dicono anche i VIPs, da Fiorello a Mahmood. Ieri abbiamo fatto sentire la canzone dei Negramaro, di Giuliano San Giorgi, la nuova idea del restare a casa. Vai, dai, dalla regia, fammi sentire qualche VIPs. Ho un'idea per tutti noi, ho un'idea, visto il periodo, ma perché non stiamo un po' a casa? Tutti a casa? Eh? Guarda che bello! Che è sta roba, andare in giro a fare gli aperitivi? Che brutta cosa! Andare in giro a fare le feste? Che brutta cosa! Per favore, rispettate ciò che è stato detto in questi giorni, ovvero cercate di uscire di casa il meno possibile per proteggere voi stessi, ma soprattutto chi vi sta accanto. Volevo intanto mandare questo messaggio a tutti quanti voi giovani che avete la voglia di vita che scorre nelle vostre vene, come è giusto che sia. Quindi magari ogni tanto pensate di fare la cosa giusta, invece un po' di incoscienza c'è. Abbiate un occhio di riguardo per voi stessi, per i vostri genitori e soprattutto per i vostri nonni, che in questa circostanza potrebbero essere i soggetti più a rischio. Anche Nick dice di stare a casa, ma d'altronde è giusto così, cari ascoltatori, è giusto così. Oh, tra l'altro abbiamo sentito prima il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte. C'è da dire che una considerazione che voglio farvi, cari ascoltatori, voglio stimolarvi su questo, chiamate all'800240024, è che si tratta, Giuseppe Conte, di un premier che, l'abbiamo detto mille volte, fino a 2 anni fa di fatto era una persona sconosciuta, una persona che nessuno conosceva e che ora si trova di fatto a dover gestire la più grave crisi di emergenza dai tempi della Seconda Guerra Mondiale. E io sono stato il primo a dire non mi sembra Churchill, a criticarlo, però ecco, vorrei per una volta che tutti si mettessero nei panni dell'uomo Giuseppe Conte, di tutta la struttura di comando, di tutta la struttura di governo. Certo, ragazzi, non deve essere facile. Sulla questione dei supermercati, sulla questione dell'assalto ai supermercati, ma che vi devo dire? Quando vi ho detto delle cose in passato sono stato criticato, sono stato attaccato. Io ho deciso, guarda, questo lo comunico anche alla redazione, ho deciso che da oggi qualunque messaggio di odio, livore, rabbia, per favore non mandiamolo in onda, io non ne do conto, perché mi hanno spiegato che il primo sentimento che scatta in questi casi è la paura, comprensibile. Il secondo sentimento che scatta associato alla paura è quello della rabbia, e vedo tanta rabbia che è ovviamente dettata anche dalla paura. Direi che non c'è bisogno di rabbia, c'è bisogno di stare uniti, c'è bisogno di stare tranquilli, c'è bisogno di stare sereni. Certo, la questione dell'assalto ai supermercati, ma cari ascoltatori, ma che cosa vi devo dire? Se sentite la necessità di correre ai supermercati, io vi devo dire è meglio assolutamente non farlo. Ma non lo dico io, lo dicono tutte le autorità, facendo sapere che gli approvvigionamenti ci saranno, i supermercati rimangono aperti, gli esercizi commerciali rimangono aperti, e quindi perché mettersi in coda peraltro con gli assembramenti? Ecco, vi pongo questa domanda, vai. Senti, allora qui Conte proprio. Aggiungiamo in questo provvedimento anche un divieto degli assembramenti all'aperto in locali aperti al pubblico. Abbiamo e comprendiamo la voglia di socialità anche dei giovani, abbiamo visto tutti episodi, fotografie anche dove la movida, c'è molto divertimento, si consumano anche delle bevande al di fuori dei locali e dei bar. Non ci possiamo permettere più queste occasioni di aggregazioni che diventano occasioni di contagio. Ragazzi, io su questo sono d'accordo, cioè forse, vi dirò questo, forse non abbiamo neanche fatto abbastanza. Allora, non è il caso di chiudere tutto, tutti parlano del modello Wuhan, del modello Cina. Chiudere tutto, chiudere anche i ristoranti, chiudere i bar. Perché i bar aperti dalle 10 alle 18? Che cosa può succedere dalle 10 alle 18 che non può succedere alle 19? Questo me lo chiedo, se lo chiedono tutti. Perché tenere i mezzi pubblici che vanno in giro normalmente? Perché i treni? Perché gli aerei? Cioè, la sensazione è che non abbiamo la forza davvero di fare anche l'ultimo passo, come si dice, fatto 30 facciamo 31, e arrivare a chiudere tutto quanto. A questo proposito, oggi Massimo Gramellini, in prima pagina del Corriere della Sera, il titolo è "In diretta dalla caverna", scrive: è stupefacente come il flagello abbia cambiato in pochi giorni la gerarchia delle emozioni. Tutto ciò che fino a ieri ci rallegrava o ci irritava, un gol particolarmente bello, un tweet particolarmente trucido, spingendoci a dedicargli una fetta significativa delle nostre energie, è stato repentinamente soverchiato da preoccupazioni più basiche. C'è meno voglia di esultare, ma anche di odiare. Ecco, su questo faccio un inciso, magari non tanto. Certo, scrive Gramellini, rimangono i complottisti, convinti che il contagio sia stato diffuso ad arte per consentire al potere di chiudere in casa il mondo, o peggio, per far perdere lo scudetto alla propria squadra. Ma se si escludono le frange degli ossessivi cronici, quelli degli sbadati molesti che continuano a scattarsi selfie di gruppo, la maggioranza silenziosa è obbligatoriamente sedentaria e ha maturato un'allergia improvvisa per i dilettanti e gli spacconi. Può parteggiare per questo quel virologo, ma la disputa da bar si è trasferita in laboratorio, dove fa già tutto un altro effetto. Si segnala ovunque un improvviso recupero di serietà che per adesso viaggia ancora stile ali dell'ansia, ma presto, speriamo, potrebbe andare avanti da solo, sospinto da un anelito di consapevolezza. Bisognerà ricordarsi e tenere ben stretto tutto questo quando usciremo dalla caverna a rivedere le stelle. Ragazzi, io mi sento un po' in caverna, ve lo devo dire, qui in Viale Monza, da casa. Subito mi dicono: Nicoletti, c'ha anche il video. Adesso mi attrezzerò anche per il video. Faccio un appello quindi ai grandi tecnici di Radio 24. C'è anche un appello per il video. E va bene, cercheremo anche di attrezzarci per il video. Intanto sentiamo anche il sindaco di Milano, Sala, che dice: ragazzi, di annoiarsi. Vai, Alpino. Un invito speciale da parte del vostro sindaco ai ragazzi e alle ragazze: state in casa. Date una mano alla famiglia, se è il caso annoiatevi anche un po'. Guardate, la mia generazione è cresciuta e si è formata anche un po' annoiandosi. Io voglio salutare il professor Massimo Galli, che ringrazio, virologo dell'ospedale Sacco di Milano. Professor Galli, buongiorno. Io sono uno specialista di malattie infettive, virologo va bene, sì. Ma poi sì, sì, sì. Certo, certo, ha ragione, errore mio, professor Gall. Le chiedo questo, professore, sono giuste le misure che sono state approvate dal governo, oppure bisogna anche fare di più? Si legge molto, facciamo come in Cina, lei che pensa? Io sono esattamente sulla posizione del facciamo come in Cina, pur con le debite correzioni date dal fatto che va ricordato che noi abbiamo una distribuzione della popolazione diversa rispetto a quella delle aree della Cina colpite, che sono state in larga misura aree metropolitane a grande concentrazione. Ma al di là dei cavilli e dei particolari, insomma, qui, signori, bisogna che tutti ci mettano in testa che se vogliamo liberarci in un tempo ragionevole di questo problema, le misure devono essere misure forti, misure senza molti se e senza molti ma. I fronti sono due, noi abbiamo molto accentuato, e vogliamoci se non lo accentuo io che vivo il problema in maniera diretta, la situazione drammatica degli ospedali lombardi. Bene, va detto, sostenuto e sottolineato che la battaglia si vince e si deve combattere in modo fondamentale sul territorio tutto. Gli ospedali ricevono quello che il territorio non è riuscito a contenere da qui in poi e possono andare in ulteriore crisi. Il concetto è che si deve essere capaci di limitare la diffusione dell'infezione a livello territoriale, si deve essere in grado di intervenire sui contatti delle persone che si sono infettate per poterli quarantenare, si deve poter intervenire anche, e direi, sottolineo soprattutto, nel poter quarantenare in maniera corretta, cioè nel poter consentire il decorso della malattia in maniera da una parte sicura, ma dall'altra sicura anche per tutti quanti gli altri, per quanto attiene alle persone che sono infettate dal virus, che non hanno però bisogno di ricovero ospedaliero e che non possono però essere in sicurezza lasciate a casa, in casa loro, in separazione rispetto agli altri. Sì. non tutti hanno una camera e un bagno da utilizzare in maniera esclusiva. E poi queste persone devono essere supportate, devono poter essere seguite. Questo è un altro elemento fondamentale, che ovviamente si garantisce esclusivamente con una organizzazione territoriale che veda il coinvolgimento dei medici di famiglia e che veda la possibilità di avere anche delle soluzioni possibilmente creative che consentano di limitare al massimo i contatti, che consentano di limitare al massimo le possibilità di espansione ulteriore del contagio. Tocca ecco, però professore, dei programmi di telemedicina, ad esempio, per una serie di situazioni di questo genere. Però professor Galli, mi scusi, vuol dire che le misure che lei vede e adottate sono non sufficienti? Cioè lei ci sta dicendo che fosse per lei, ovviamente, dal suo punto di osservazione bisognerebbe chiudere tutti i bar, tutti i ristoranti, le chiedo anche fermare i mezzi pubblici, bloccare gli aerei, bloccare i treni, come hanno fatto in Cina, Wuhan? Allora, per quanto riguarda bar, ristoranti ed esercizi commerciali, sentivo poco fa in una trasmissione televisiva che in cui uno degli altri ospiti era anche l'assessore Gallera, credo che si vada verso la chiusura degli esercizi commerciali, punto. Nel senso che allora andava fatto subito, cioè questo mi non lo dica a me, certamente è infatti lo so, so che questa è la sua posizione, so che questa cosa è chiara, non si riesce a fermare questa cosa se non si interviene in maniera drastica, chiara da questo punto di vista. Quindi se rimangono aperti determinati luoghi di lavoro, e anche qui dovrà essere considerata situazione per situazione cosa implica la necessità di continuare, cosa invece può essere sospeso, è questo quello che si fa, però insomma le faccio il caso del personale degli ospedali, non può chiudere i mezzi pubblici, e questo vuol dire che la gente che deve andare a lavorare in ospedale non ci può andare. E questo è l'esempio limite, ma questo riguarda molte altre funzioni essenziali. I mezzi pubblici devono essere riservati a chi va a lavorare per attività per necessità essenziali che si mantengono. Quindi non li puoi chiudere, professore. Le devo chiedere tanto una questione tecnica, se al viva voce può toglierlo, le faccio ancora un'ultima domanda. Le chiedo questo, si è sparsa questa voce, ma lo chiedo a lei come scienziato, dalla Cina, del fatto che secondo i cinesi il virus rimarrebbe nell'aria mezz'ora, la dico da uomo della strada, e quindi potrebbe esserci bisogno di una distanza di 4,5 metri e non più di 1 metro o 1,80 metri tra una persona e l'altra. Ci può illuminare su questo punto di vista, perché questo cambia il rischio di contagio? Vorrei a mia volta essere illuminato, perché chiaramente mi è giunta notizia di affermazioni di questo genere. Non ho ancora potuto vedere la trasformazione di queste affermazioni in un dato scientifico, quindi francamente la risposta onesta sarebbe non lo so, bisognerebbe capire se veramente questo è vero. D'altro canto mi risulta difficile pensare che ai fini strettamente di una capacità infettante il raggio di permanenza del virus, se non in condizioni del tutto particolari, mi viene in mente, ma non vorrei dire una sciocchezza e quindi forse è meglio che non la dica, ma insomma, se tu hai una situazione di aria forzata che ti arriva addosso, questo è un discorso, ma se tu sei semplicemente al raggio di uno starnuto, per capirci, credo che 1,82 m, 1,87 m sia veramente il raggio in cui ti puoi aspettare che ti arrivi un quantitativo ancora teoricamente pericoloso del virus. Ripeto che il vero rischio sta però in un ambito più ristretto, insomma, no? Siamo attorno al discorso di una di 1 metro o poco più, quindi voglio dire è anche forse inutile andare a dare delle prospettive e suscitare dei timori, alla fin dei conti, di fatto non particolarmente giustificati. Sì. In termini di... Senta, le faccio un'altra... Chiaro. Le faccio un'ultima domanda, professor Galli, che arriva da un ascoltatore in realtà, e dice: ma scusi, non so, all'edicola, facendo una passeggiata solitaria di 300 metri, è ammesso andare in edicola a prendere un giornale, cioè fare quei piccoli gesti quotidiani anche da soli? Io credo senz'altro che questo sia possibile e prevedibile, voglio dire. Non... Sì, sì. Allora, sì. Mi perdoni, se io in questo momento, in grave ritardo, perché mi hanno trattenuto un paio di televisioni a casa, dovrò dargli un taglio sta cosa, anche con voi, sì, perché altrimenti non lavoro più, la competenza si paga in questi termini. Per andare a lavorare, voglio dire. È chiaro che sto uscendo di casa e sto... facendo dei percorsi fuori casa. Se fossi in pensione, cosa che tutto sommato non starebbe male, andrei all'edicola a prendermi il giornale, probabilmente, no? E questo e poi tornerebbe a casa. Ancora e poi una delle cose possibili: cacciati su una mascherina se hai l'impressione di poter trovare troppa gente per la strada, ma fin lì ovviamente ci puoi arrivare. Quel che è stupido è andare a ficcarsi in situazioni dove c'è tanta gente, pensare tutto sommato, vabbè, siamo costretti a casa, invito parenti ed amici e facciamo una bella cenetta tutti quanti assieme, e non è il momento, mi spiace, non è il momento. La socialità fatela per telefono. È stato chiarissimo, professor Galli. No, ma è stato chiarissimo. Noi so che è sempre disponibile con noi, con i mezzi di informazione. Purtroppo in questi casi essere competenti, insomma, serve anche alla comunità, e quindi tanti lo chiamiamo. Ripeto, direttore responsabile del reparto malattie infettive all'ospedale Sacco di Milano. La ringrazio, professor Galli. E prima di andare in pubblicità, io vorrei aprire una pagina che è legata alle immagini che abbiamo visto ieri anche sui giornali, e cioè le carceri italiane dove ci sono molte rivolte, ci sono anche immagini anche brutali. Ecco, non dico niente dei cosiddetti, se ho capito bene, antagonisti. Vorrei capire che tipo di professione sia: antagonisti che sono andati a manifestare, per esempio, davanti al carcere San Vittore di Milano. Posso capire i parenti dei detenuti, posso capire le persone coinvolte, poi ci sono gli antagonisti. Che lavoro fai? L'antagonista. Ma va bene, ne parliamo, anzi no, mandiamo la pubblicità, ne parliamo tra un attimo. Devo dire che su questo Radio Radicale, che da tanto tempo segue anche dal di dentro con le voci quello che succede nelle carceri italiane, aveva messo un po' in guardia, dire attenzione, perché nelle carceri italiane sta succedendo qualcosa. Tra poco ne parliamo. Uno, nessuno, 100 Milan. Alino, anche per me Conte è il migliore uomo che potremmo avere oggi al comando. Ciao ciao, Rita. Scusa Alino, potresti far fare un annuncio alla Fusconi di stare a casa con quella voce, per favore? Grazie, grazie, grazie. Vabbè, ci stiamo attrezzando, cari ascoltatori. Intanto, ma no, io non ho detto, anche per me è il migliore Conte, io non l'ho detto che è il migliore, sto dicendo, ho invitato gli ascoltatori a fare una riflessione sul fatto che questa persona, 2 anni fa sconosciuta, di fatto ora si trova a gestire un'emergenza senza precedenti. Però vorrei fare questo rumore ancora, perché vorrei idealmente farlo in faccia a un uomo che me l'ha fatto per giorni, c'è una tazzina di caffè, e che anche oggi ovviamente è in vestagliona, addirittura al telefono, perché oggi ti ho rubato l'applicazione di Radio 24. Un attimo, ecco. Che sto contando, 5, 6, 7, forse arrivo a 8, vabbè, niente, sto contando quanto mi è rimasto. Sai che la borsa è crollata, io avevo i miei risparmi investiti in borsa. Sei rimasto con Cerino in mano. Sono rimasto con Cerino in mano e con 8 euro. Adesso vediamo. Spero che oggi non crolli completamente. Vediamo. Signor Leonardo Manera, allora io sono a casa, come prevede come prevedono le ultime disposizioni. Leonardo Manera è al telefono, cerchiamo insomma in qualche modo, grazie alla tecnologia, di andare in onda. Vogliamo però salutare. La tecnologia sì, ce l'hai tu, dico, io sono col telefono vecchio stile. Beh, ho capito, sono, non sei mica con il telegrafo. Vabbè, sei col telefono, il telefono, dai, sarà almeno un cordless, no? Almeno questo, sì, un cellulare. È un cordless, no? Comprato nel 90. Devi stare attento perché i cordless a volte le linee vanno un po' e vengono. Comunque vogliamo salutare un ospite che sicuramente di quello che sta succedendo nelle carceri italiane ne sa molto più di noi. Riccardo Arena cura la rubrica Radio Carcere storica su Radio Recale. Buongiorno Riccardo, eccoci qui. Ciao, buongiorno a voi agli ascoltatori. E si diceva, oggi leggevo Mattia Feltri sulla Stampa, chi ascolta Radio Radicale non è stupito dalle scene che si sono viste, perché qualcosa si sospettava e qualcosa, come dire, bolliva in pentola. Cosa è successo, Riccardo? Ce lo puoi spiegare? Ma è difficile trovare una motivazione nella coincidenza di questi eventi che si sono susseguiti, che sono esplosi simultaneamente ieri. Io francamente era da tempo che temevo una rivolta, anche se speravo una manifestazione non violenta, perché la violenza va sempre respinta, questo sia chiaro, però non mi aspettavo adesso una cosa del genere, ma mi ha stupito la simultaneità dell'evento. Le carceri erano già una polveriera da tempo, io me l'aspettavo ad agosto una cosa del genere, e ora obiettivamente forse con la scusa del virus e con la preoccupazione del virus si sono un pochino esasperati gli animi ed è scoppiata la scintilla. Io non vorrei però che in queste manifestazioni violente, che ripeto vanno assolutamente respinte al mittente, ci sia una sorta di strumentalizzazione, ci sia una guida. Non vorrei che fosse successo questo. Cioè una guida cosa vuol dire? Una guida da parte di chi? Non vorrei che ci fosse una regia che francamente mi lascia un po' perplesso. Troppo tutti insieme, per una ragione. Un tempismo quasi perfetto, insomma. Tempismo quasi perfetto che non si giustifica tanto con la ragione che sembra essere alla base della protesta, ovvero la sospensione dei colloqui. Ora, ragazzi, parliamoci tra di noi, io ho detto anche a tanti parenti che mi hanno telefonato, salite sui tetti perché vanno sospesi i colloqui fino a inizio aprile? Ma non mi sembra una cosa giustificata. Vivete, vi lasciamo vivere come animali, stipati come sardine. Oggi abbiamo nelle carceri più di 61.200 persone detenute ristretti in 47.000 posti effettivi. Tra degrado, sporcizia, certo, mancanza di rieducazione, di scelta, tra disperazione, e per la sospensione dei colloqui scoppia una rivolta così, ma insomma qualcosa non mi torna francamente. No, infatti io ho visto per esempio questi striscioni, indulto, le classiche, come dire, le classiche amnistia, le classiche rivendicazioni insomma che si portano avanti. Ecco, sì, ma che non la sensazione col virus. Infatti la sensazione che tu ci conforti a dire si è preso forse lo spunto da una situazione di questo tipo per portare avanti delle altre rivendicazioni, no? Sì, altre rivendicazioni che però, ripeto, non hanno nessun nesso con l'emergenza virus. Voglio dire, ad agosto era giustificata una protesta non violenta per chiedere di rimediare al sovraffollamento che questi governi hanno sostanzialmente ignorato. Questa è gente abbandonata a se stessa, anzi abbiamo un segmento dello Stato che la politica ignora completamente. Questo è un fatto gravissimo anche dal punto di vista dello Stato di diritto, questa parola un po' conosciuta che è alla base, certo, di ogni democrazia. Ora, chiedere l'indulto oggi perché c'è il virus, beh, insomma, mi sembra proprio una richiesta priva di razionalità. Cosa diversa è prendere contezza del problema, sia virus che sovraffollamento, e questo dovrebbe farlo il ministro Bonafede, affrontare il problema, cosa che non viene fatta, casomai alleggerire un po' le carceri, alleggerire un po' le presenze nelle carceri, prevedendo magari la detenzione domiciliare o gli arresti domiciliari per quei tanti detenuti che lo possono ottenere. Questo è un altro paio di maniche. Ma mi viene da fare una domanda, ma chi sarebbe in grado di organizzare una regia così importante che coinvolga tutte le carceri italiane, anche in breve tempo, tra l'altro? Facciamo così, mi avvalgo della facoltà e non rispondere. perché bisogna spiegarlo bene. Riccardo Arena, come dire, è una voce che in carcere poi è anche molto, molto ascoltata, insomma, è una voce che raccoglie da anni voci dal dentro del carcere, ma è anche una voce ovviamente ascoltata. Però, facciamo il nostro lavoro, Riccardo, perché invece noi non conosciamo quel mondo come lo conosci tu, e quindi vorremmo davvero capire, cioè capire come sia possibile, come chiede Leonardo Manera, un'organizzazione così capillare. Cioè uno si immagina il carcere con persone isolate che fanno fatica a comunicare, e invece evidentemente c'è stata una regia, ecco, c'è stata un'organizzazione. Io ho questo sospetto che purtroppo non posso più di tanto avanzare più di tanto, perché non ho ancora gli elementi di prova, come si dice, mi sto raccogliendo, cosa che non è facile. Vero è, questa è una verità, però secondo me, che così come fuori non è stata gestita bene l'emergenza virus, altrettanto non è stata governata l'emergenza nelle carceri. Non sono stati affrontati in modo serio questi momenti emergenziali, e soprattutto non sono state messe in campo quelle misure capaci di prevenire la diffusione anche dentro il carcere. Oggi noi non sappiamo chi in carcere è positivo o negativo, ma vi sembra una cosa normale? Non sono stati fatti tamponi né agli agenti né ai detenuti nelle regioni soprattutto a rischio. Era lì che bisognava subito intervenire. Bisognava intervenire subito anche in quei luoghi chiusi come le carceri, per capire chi era positivo e chi era negativo. Una volta avuto il dato della positività e della negatività, a quel punto si andava avanti con dei provvedimenti specifici per risolvere il problema. Anche perché ricordiamo che in carcere il problema della prossimità fisica è un problema altro che un metro, altro che due metri di distanza. Senti Riccardo, si è visto molto questa espressione molto utilizzata in questi 24 ore, che usiamo il pugno duro. Credo che anche il ministro, insomma, dal punto di vista istituzionale, abbia detto una risposta ci deve essere dalle istituzioni, ma la gente che dice usiamo il pugno duro, usiamo la cattiveria nei confronti di chi, se è lì evidentemente qualcosa ha fatto, che cosa ti fa suscitare? Beh, questi sono i tempi di oggi, purtroppo siamo in un totale contesto di ignoranza e di disperazione sia nella politica che nei cittadini. Io torno a ripetere, qua c'è una non gestione dell'emergenza virus sia nelle carceri che fuori. Lo vedi anche quest'ultimo provvedimento di ieri sera, francamente lasciateci tutti a casa, no? Più senso, che senso ha farci uscire, no? Ma il punto è essenzialmente che c'è un incattivimento, un imbarbarimento, c'è una mancanza di cultura, perché è vero, chi ha commesso un reato deve pagarlo, ma è giusto scontare un reato stando 22 ore chiusi in cella? Stando in carceri oscene, vecchie del 700, dell'800, tra topi e scarafaggi, senza ricevere né un trattamento rieducativo, così come prevede la Costituzione, né un'occasione di speranza, né tantomeno un servizio sanitario adeguato, perché nelle carceri il servizio sanitario è pressoché inesistente. Ora, trattare delle persone peggio che degli animali non mi sembra da paese civile. Questo io penso che chi parla così perché non è mai stato in carcere. Io che sono andato a trovare alcuni detenuti, ho conosciuto la situazione, mi rendo conto della situazione, ma chi non c'è mai stato ha un'idea secondo me completamente diversa da quella che sono le carceri italiane. E certo, ignoranza e disperazione. Cioè io dico l'ignoranza di persone che ormai non sanno più, non si occupano più, non approfondiscono più, ma come la politica non approfondisce più, perché qui poi la responsabilità, oltre che dei giornali, è della politica, perché la politica non ha posto al centro della questione del dibattito parlamentare la questione sia del corretto funzionamento del processo penale, sia di una corretta esecuzione della pena. Esecuzione della pena che, se viene eseguita in maniera corretta, produce sicurezza. Questi si riempiono la bocca di slogan: certezza della pena, sicurezza, senza considerare che oggi certezza della pena equivale a tortura e che l'esecuzione della pena carceraria produce insicurezza per noi cittadini, perché chi oggi sta in carcere esce peggiore rispetto a quando è entrato. Questo, certo, è la verità. E questo, no, ma questo è il punto, abbiamo detto, e la responsabilità politica. Sì, e poi porta anche, chiaro, porta anche alla cosiddetta recidiva, e abbiamo spiegato molte volte, e quindi a una minore sicurezza sociale, ecco, visto che teniamo tutti a una sicurezza della società. Se io lascio delle persone, Riccardo, senza via di scelta, sì, per un domani migliore, certo, come potranno mai tornare, uscire dal carcere e non tornare a delinquere? Un ragazzino di Scampia, che alternative ha una volta che sta 6 mesi a Poggio Reale? Ragazzi, ma scherziamo, qui non questo c'è il governo, è la questione, qui manca altro, sì, che sì, sì. Qui non ci si improvvisa primo ministro, non ci si improvvisa ministro della giustizia. È così. Queste sono le tematiche che verranno affrontate. Io intanto, nel ringraziare Riccardo Arena, voglio ricordare Radio Carcere in onda su Radio Radicale, credo il martedì e giovedì alle 21, ma comunque trovate sul sito di Radio Radicale, mi sembra giusto, insomma, non è dire spostare gli ascoltatori su una radio concorrente, però mi sembra meritorio in questo caso segnalare il lavoro che Radio Radicale e Riccardo Arena fanno da anni. Caro Leonardo, dobbiamo andare alle informazioni sul traffico, se vuoi mi affaccio qui su Viale Monza e do il traffico di Viale Monza. Insomma, io penso che tu qualche soldo da Radio Radicale comunque la prenda per fare questa pubblicità. Ma no, non è vero. Sì, ed erano 30-40 euro passaggio. Sei rimasto con il cerino in mano, hai perso tutto, perché sei uno speculatore di borsa, avrai investito sulle azioni dell'Elisir del dottor Meazza, peraltro, ti sarai affidato anzi a Mauro Meazza, che come il gatto e la volpe messo in un'unica persona ti avrà detto: vieni, dammi i tuoi soldini, dammi i tuoi zecchini. Mi sono affidato alla mia promotrice, che mi ha fatto investire in alcune azioni, un po' di azioni. L'anno scorso volevo venderle e mi hanno detto: tienile, sono un affare. Poi 6 mesi fa volevo venderle e mi hanno detto: tienile, sono un affare. Adesso ormai non posso più vendere, mi hanno detto: tienile, sono un ricordo. Beh, insomma, e tu come l'hai presa con questa simpatica promotrice finanziaria? Ha dello spirito, come dire. Vabbè, aspetta un rimbalzino. Aspetta il rimbalzino, intanto stai col cerino, traffico. Uno, nessuno, 100 Milan. Milan. Tutta quella fatica per scappare da Milano e sto in zona rossa lo stesso. Ma nessuno parla di provvedimenti per le partite IVA, che se chiudono bar, negozi, cantieri, dove vivono? Come vivono? Il 16 c'è da pagare dell'F24 e cosa pagano? Ragazzi, cioè, purtroppo io lo so che le domande sono tantissime e le risposte probabilmente in questo momento non sono altrettanto numerose, o meglio, non c'è una risposta per ogni domanda. Ci sono ascoltatori che mi hanno scritto, vi ringrazio perché avete riscoperto un po' gli SMS, mi scrivono per esempio: che cosa faccio io se chiude e devo pagare il mutuo e mi chiude, io faccio l'agente di commercio, io ho un negozio. Non lo so, cioè non, purtroppo non ho tutte le risposte, non so, forse Leonardo se ne hai, però sono... No, pare che ci siano delle sospensioni, per esempio per le rate di mutuo, adesso questo, non lo so esattamente, però ci sono dei provvedimenti in questo senso comunque. Ci saranno, però voglio dire, è chiaro che poi se tra due mesi un lavoratore dipendente ha perso il 70% dei clienti, non è che poi... A vita glieli si può, no? Lo si può ristorare in qualche modo. È chiaro che alla fine di questa situazione conteremo un po' i cocci, conteremo i danni, ognuno si guarderà intorno e qualcuno purtroppo li conta in termini di salute, che è la cosa più preziosa, altri sicuramente li conteranno in termini. Ne abbiamo parlato tante volte anche della tua situazione, Leonardo, adesso al di là delle risate, insomma tutti gli artisti, tutti coloro che vivono nel mondo dello spettacolo, tutti coloro che non fanno più serate, sì, sì. Non è che ti verranno a rimborsare tutte le serate che non hai fatto, no? Ieri è stata proprio stata data la notizia che le registrazioni che avremmo dovuto fare televisive per un programma sono state completamente al momento sospese, quindi anche quelle sospese. Ma io credo che invece per dare un minimo di ottimismo alle persone, che dopo, tra un paio di mesi, quando la situazione comunque migliorerà, ecco, poi le persone torneranno più numerose di prima, ma ad affollare magari, ad andare nei locali, nei ristoranti, quindi in qualche modo ci sarà un rimbalzo in questo senso. Il rimbalzino, quello che tu attendi. In tutto questo, a grande richiesta, a grandissima richiesta, ma richiesta di chi? Di un ascoltatore che hai sentito prima, ha detto un messaggio dalla Svizzera, voleva sapere. Cioè, tu hai richiesto un messaggio dalla Svizzera, Leonardo? No, io no. So. No, infatti, neanch'io no. Lì Lorenzo Nespoli, e faccio finta di essere in radio. No, fa segno io. Miriam Lucchetti, tu hai richiesto... No, mi fa segno. Alpino? Nessuno, c'è solo un ascoltatore. Ha richiesto un saluto dalla Svizzera. E allora, dalla Svizzera, le due B, come sono state soprannominate, le figlie di Fusconi. Siamo a questo, ragazzi. Radio Londra, eccole qua. Salvateci da nostra madre! Non vogliamo più stare a casa! Nostra madre ci fa fare un sacco di compiti! Mi sembra un messaggio chiarissimo, Leonardo. Mica come te con Beniamino, che gli dici che cosa? Vai davanti alla PlayStation tutto il tempo che vuoi. Come davanti alla PlayStation? Ma scusa, ma la scuola didattica virtuale? Ma la scuola a distanza? La telescuola? Sì. Ma sì, ogni tanto, 5-6 minuti tra un videogioco e l'altro. Così anch'io sono libero di fare le mie cose, ecco. Vabbè, a proposito di cose, il nostro Leonardo, che oggi è al telefono, ma ci ha regalato ieri uno dei suoi interventi. No, lo dico perché sennò adesso lo sentite come se fosse in radio, ma in realtà è a casa in Vestagliona. Ci ha regalato, registrando uno dei suoi momenti, allora pregherei l'Alpino di farci sentire. Vai Leo. Sono tempi difficili. Quando ci sono tempi difficili, l'unica cosa che resta da fare è pregare, perciò anch'io prego. Prego per quelli che per non prendere il coronavirus stanno attenti a non toccarsi mai la faccia con le mani, ma poi le mani se le tengono tutto il giorno sulle palle. Prego per quelli che devono stare in isolamento in casa con la famiglia in una stanza da soli, ma con la famiglia vive in un monolocale. Prego per quelli che hanno investito in borsa e che non moriranno di coronavirus ma di infarto quando vedranno l'estratto conto. Prego per gli amici di quelli che quando parlano sputacchiano. Prego per gli ipocondriaci che ormai fanno il bagno nella mucchina. Prego per i genitori che devono tenere a casa tutto il giorno i figli e che non moriranno di coronavirus ma di esaurimento nervoso. Prego per le signore che hanno il marito pensionato che adesso sta a casa tutto il giorno. Alcuni di loro preferiscono prendere apposta il virus. Prego per quelli che per la prima volta sperimentano il telelavoro, il lavoro da casa, litigano con tutti i parenti e dopo due giorni hanno nostalgia del capo rompicoglioni. Prego per i Novax, che adesso non sanno più che cazzo dire. Ma prego per tutti noi, perché mi sono accorto che sto coronavirus, oltre a cambiare le nostre abitudini, sta cambiando anche il nostro umore, ma per una volta voglio essere ottimista. Il coronavirus non durerà per sempre, torneremo a vivere, forse non come prima, un po' cambiati, ma torneremo a vivere e soprattutto a fare più gioiosamente quelle cose che prima ci sembravano normali. Potremmo tornare ad abbracciarci senza paura, ad affollare i centri commerciali il sabato e la domenica, riempiendoci il carrello di cose inutili, ad aspettare il fine settimana per fare una gita fuori porta, senza paura, con tutta la coda al rientro in città. A provarci con un ragazzo senza prima pensare al virus, ma solo pensando alle parole giuste per fare breccia nel suo cuore. Ad andare allo stadio mangiando prima un panino con la salamella, sventolando le bandiere, ad andare in chiesa e poi fermarci a parlare sul sagrato, a sudare in palestra, a fare il bagno in piscina, a tenerci per mano senza subito usare la mucchina, a parlarci un con l'altro senza mantenerci almeno a un metro di distanza, ad accompagnare i nostri figli alle estenuanti partite del sabato pomeriggio, a odiare la metropolitana sempre intasata nell'ora di punta, e annusarci e leccarci come animali innamorati. Insomma, tutto questo tornerà, gli anziani torneranno ad affollare gli studi dei medici non perché sono malati, ma solo perché hanno del tempo libero. I giovani potranno tornare a pensare serenamente al futuro e a quelli come me, beh, quelli come me resterà il ricordo di aver vissuto per un attimo la vita sospesa. Sei un grandissimo, Leo. Guarda, non dico niente, sei un grandissimo. Dai, dobbiamo andare al giornale radio che siamo un attimino in ritardo, ma devo riprendere i tempi qui da casa e poi la seconda ora di Uno Nessuno 100.000. Uno Nessuno 100.000. Allora signori, siamo qui, insomma, io sono a casa, la seconda ora di Uno Nessuno 100.000, siamo qui in diretta. Cosa mangiamo oggi a pranzo? Sì, cosa mangiamo a pranzo? Aspetta, Angelo. Sì, sì, vorrei rendere nota a tutta Italia che sono in diretta da casa, ma forse l'avete scoperto. Volete salutare tutta Italia, Angelica e Mattia, poi dovrei fare una diretta radiofonica. Ok, andiamo. Va bene, ciao. Ecco. Ciao, ciao. Ecco, tutta Italia saluta Leonardo. Hai visto che hanno detto andiamo, vuol dire che stanno uscendo, eh? No, no, no, come stanno uscendo? No, ho detto, no, andiamo, sono a casa, resta da casa. E il bello della diretta è così. E che cosa, ecco, cosa mangiamo a pranzo, Leonardo? Cosa, hai un'idea, insomma, di ho vabbè, sentito che ti chiedevano la pasta al pesto. Sì, Mattia è goloso di pasta al pesto e va bene. Ecco, qui adesso lancio una sfida per cui tutti i liguri mi odieranno. Pesto senza aglio. Allora, se vuoi pesto ti dico che cosa ho io nel frigorifero. Sì. Va bene, è un momento molto importante. Ho una busta di insalata Gran Mix gustoso, 4 sì, mele. Ma scaduta. Gran Mix gustoso, guarda, se metti le mele nell'insalata, bella pezzettini, ti manca un avocado per quel che mi riguarda e un po' di feta. E poi, guarda, fino a domani sei a posto. Poi ho un'altra busta di insalata Cuori di Iceberg, un mezzo melone e basta. Melone non è molto di stagione, però in questo momento va bene, siamo in mezzo melone. Allora, cari amici, avete capito, insomma, siamo in una situazione, come titolo oggi Repubblica, tutti a casa, e allora anche io trasmetto da Viale Monza, ma siamo in grado di collegarci con un ospite che è particolarmente azzeccato oggi, perché io ho letto questo titolo, non so se tu lo hai fatto, Leonardo, perché sei un pigrone, non sei neanche andato a prendere i giornali. Il titolo su Repubblica è questo: il sindaco di Milano Sala pensa per Milano una soluzione alla Hong Kong. Allora, io voglio salutare il general manager di Greater China e Asia Pacific di Venchi, che è una storica azienda italiana produttrice di cioccolato e gelato, Marco Galimberti, buongiorno. Buongiorno a tutti. Allora, Hong Kong, realtà che lei conosce bene, che vuol dire, se noi leggiamo il titolo, Milano dovrebbe fare come a Hong Kong? Che avete fatto a Hong Kong? Ma a livello sanitario o a livello economico? Perché anch'io ho letto l'articolo stamattina e c'erano molti riferimenti. Beh, diciamo tutte e due, ci può interessare tutte e due. Intanto il comportamento quotidiano. Allora, noi siamo stati a casa appena è scoppiato l'epidemia, diciamo. Quindi io ero qui, era la vigilia del Capodanno cinese, era un venerdì, stavamo celebrando la vigilia con i colleghi e quando dalle news è venuto fuori il primo contagiato di Hong Kong c'è stato un fuggi generale per andare a casa. Poi 5 giorni di festa hanno aiutato perché siamo stati tutti a casa e quindi diciamo abbiamo potuto smaltire un pochino queste giornate di feste a casa e poi dal giovedì siamo rientrati a lavoro, chi è rientrato e chi no. Il governo aveva già messo in pista delle misure restrittive come la chiusura delle scuole che tuttora sono chiuse e fanno homeschooling diciamo da ormai dal fine gennaio e misure restrittive per le metropolitane, consigli di utilizzare orari flessibili, se si può lavorare a casa si lavora da casa, se si deve andare in ufficio bisogna rispettare certe regole, controllo delle temperature all'ingresso degli uffici di tutti i building, anche dei centri commerciali, quindi insomma l'hanno presa molto seriamente, anche perché poi questo è un po' il punto a Hong Kong. Il punto Galimberti è proprio questo, si discuteva e non so cosa ne pensi anche tu Leonardo, l'idea è che quando leggo i titoli l'Italia blindata, in realtà l'Italia non è blindata, cioè è blindata a metà, cioè sono le classiche cose un po' all'italiana, lo facciamo ma lo facciamo non fino in fondo, non so Leonardo tu hai questa sensazione, perché tutti quanto dicono facciamo le cose alla cinese o come hanno fatto a Hong Kong, però lì l'hanno fatto, ci sta spiegando Marco Galimberti, non è che l'hanno fatto a tre quarti. Un po' perplesso no? Questa autocertificazione che bisogna fare, perché l'autocertificazione probabilmente sarà utilizzata in modo qualche volta anche truffaldino, penso io. Certo, a parte, sì, anche in questo siamo italiani, 40 giorni così, cioè, o meglio, la quarantena di Hong Kong, ora come va Galimberti? Cioè la situazione è migliorata, potete dire, ok, vediamo la luce in fondo al tunnel? Ma allora, io poi parlo anche per la Cina, dove abbiamo tanti colleghi in varie città, ovviamente da un mese a questa parte certo che la situazione è migliorata, nel senso che man mano abbiamo ripreso la nostra vita, io ho ancora la mascherina in ufficio e tendiamo a non andare in ristoranti affollati ad esempio, comunque cerchiamo di fare da 2 settimane a questa parte delle cene abbastanza ristrette. In Cina oggi ho avuto delle foto di Shanghai, le metropolitane erano finalmente tornate un po' piene, ecco. Abbiamo visto il fatturato tornare a salire dopo un mese di disastro, però ecco, sono stati 40 giorni, 45 e molto difficili. Quello che un po' mi rattristisce è l'impreparazione dell'Italia a questo, però vorrei spezzare una lancia comunque a favore di chi magari non è stato così impreparato e devo dire che nel caso della nostra azienda in Italia il giorno, il 28 di febbraio, ricordo bene che con tutto il management ci siamo riuniti, io in comp call, hanno subito implementato 2 settimane fa tutte le misure che avevamo implementato noi nei negozi in fabbrica e noi in fabbrica da 2 settimane abbiamo gli operai con le mascherine, diamo le mascherine ai fornitori che entrano in stabilimento, controlliamo la temperatura ai fornitori. Quindi abbiamo utilizzato sanificazione di vario tipo, quindi devo dire che abbiamo avuto il fatto di aver subito l'esperienza cinese a livello aziendale ha aiutato la consapevolezza dei miei colleghi in Italia. Ecco, ci aiuti a capire come è cambiato anche il business, perché sa, molti hanno detto in Italia ma comunque l'economia deve andare avanti, che è vero, è una grande verità, non è che il motore economico di una nazione si può completamente fermare, però il rischio, cioè, o meglio, l'alternativa è lo fermiamo per un breve periodo e magari riparte, oppure rimaniamo così a spizzichi e bocconi senza uscirne per un periodo più lungo. Voi, dal punto di vista del business, come vi siete gestiti? Allora, noi abbiamo due, diciamo, considerazioni da fare. In Cina non abbiamo produzione, abbiamo solo negozi, abbiamo sofferto, ma non abbiamo mai chiuso. Abbiamo fatto orari ridotti, ma non abbiamo mai chiuso. Questo è un tema anche di positività nei confronti dei colleghi e delle persone, prendendoci anche un rischio, però devo dire che poi alla fine pagherà, credo, sulla lealtà delle persone, anche per il fatto che comunque noi abbiamo, non abbiamo licenziato nessuno, anzi abbiamo dato dei sussidi aggiuntivi per aiutare i nostri colleghi che percepivano stipendio più basso avendo il fatturato dei negozi più basso, quindi contrariamente ad alcune aziende che invece hanno tagliato salari e hanno comunque ridotto personale, quindi crediamo che nel lungo termine noi continuiamo a credere nella Cina e nell'Asia e quindi il nostro investimento non calerà e non diminuirà minimamente. Ma quindi anche nel periodo peggiore non c'era obbligo di chiusura di tutti i negozi a Hong Kong? No, in Hong Kong non abbiamo mai chiuso neanche un giorno. In Cina alcuni centri commerciali hanno chiuso e noi di conseguenza abbiamo dovuto chiudere, altri erano molto deserti, però noi abbiamo continuato a chiudere anche perché i proprietari ci chiedevano di rimanere aperti per cercare comunque di mantenere un minimo di spirito, un minimo di vita, altrimenti era una città fantasma. Ti immagini Shanghai, 30 milioni di abitanti, deserta, era una roba è terribile. Come Wuhan, dove... Prego. Noi come eventi in Italia non vogliamo interrompere le produzioni di stabilimento, assolutamente, e i negozi per quanto possibile non li chiuderemo, quindi insomma... No, ma quello sì, è chiaro che l'idea è quella di andare avanti, Wuhan, che è una grande città, e so che, e questo per concludere, avete l'obiettivo di aprire una gelateria a Wuhan, ma è vera questa cosa, a Wuhan? Allora, mi hanno accusato di aver giocato sul marketing, ma non è vero. Noi abbiamo firmato per aprire a Wuhan a novembre, dovevamo aprire a giugno e poi ovviamente adesso l'apertura è posticipata dicembre, però insomma noi abbiamo un contratto per aprire un negozio in un nuovo centro commerciale, quindi adesso Wuhan, credo che assuma quindi... ovviamente un valore simbolico, Vedrete come va. Intanto io la ringrazio, Marco Galimberti, ripeto, General Manager Greater China e Asia Pacific di Venchi, che ci ha raccontato la situazione a Hong Kong. Guarda, Leonardo, sono talmente ormai in fissa anche questa cosa dei figli che mi è arrivato un messaggio: grazie Milan e Leonardo per la compagnia che ci fate e le notizie che ci fornite. E io ho letto questo fornite come fortnite, cioè Fortnite, il gioco per cui impazzisce Mattia. Cioè, sono talmente anch'io preso da questa situazione che uno mi scrive grazie alla notizia che ci fornite, io ho detto oddio no, Fortnite, anche qui Fortnite arriva dai messaggi. Ma perché anche tu passi tutto il giorno così poi? Perché tu sei capace di usare la console? Io so usarla solo giocando a NBA con mio figlio, che però mi straccia tutte le volte. Solo una volta sono riuscito a vincere. Tu sei in grado di usare i comandi con la stessa abilità con cui li usano? No, infatti. Ecco, no, io perdo sempre 7-8-0 quando gioco a calcio. Sì. Io ci rinuncio a calcio. Calcio, basket forse è un po' più facile. Vabbè, a proposito di sport, dopo il traffico sarà con noi Giampiero Mughini, perché dobbiamo parlare anche dello sport. Lo sport che si ferma, dai, traffico. One Express, il pallet Express. Vi presenta... 1, nessuno, 100 Milan. Allora, siamo qui. Io, come vedete, non dico, come succede spesso quando sono in radio, gli orari, perché non è proprio il clock davanti. Comunque sono le 10:20 minuti, diciamo, in via approssimativa. Tu, Leonardo, in viale Udine, in piazza Udine, hai un orario un po' diverso? Io fa le 9:50 il mio orologio qui in cucina. Sì. Ho capito, sembra la scena di Lino Banfi, sincronizziamo gli orologi, infracchia la belva umana, ricordate la mitica scena quando dovevano fare l'operazione di polizia? Sì, no, dovevano fare l'operazione di polizia, infracchia la belva umana, sincronizziamo gli orologi, più o meno siamo a questo livello, io alle 10:20, tu alle 9:50. Allora, alla fine anche il calcio capì, possiamo titolare così, caro Leonardo? Alla fine anche il calcio capì? Ma bisogna dire, almeno in Italia è andata così, in Europa mi sembra ancora che la situazione non sia proprio chiara del tutto. No, sì, in Europa sì, però finalmente, finalmente in Italia ieri ci è voluto il Presidente del Consiglio che quando ha detto blocchiamo tutto, ha detto anche blocchiamo il calcio. Giampiero Mughini, grande Giampiero, eccolo qua, buongiorno. Buongiorno cari amici, buongiorno. Eccoci. Allora, alla fine anche il calcio si è adeguato, ma davvero ha senso parlare di calcio? Ecco, ti faccio questa domanda, tu. Come hai vissuto l'ultima partita Juve-Inter? Derby d'Italia, vittoria della Juve, in altri tempi sarebbe stato, come dire, commenti, trionfo. Sai che molta gente mi ha detto, ma l'ho vista come se fosse una partita così, con un animo, no? Ma tu come l'hai vissuta? Da una parte capisco l'atteggiamento di questi nostri amici, dall'altra parte confesso invece che per me è stata una parentesi piacevole, in queste settimane che sono indubbiamente tra le più amare, agghiaccianti della nostra vita recente, in queste settimane amare, quelle due ore di gran bel calcio, sono state una parentesi piacevole, assolutamente piacevole. Era una partita a spalti chiusi, d'accordo, ma era una bellissima partita. Ora, allora non dovremmo, non so, leggere un bel libro, allora io non dovrei leggere un bel libro perché devo stare a pensare quanti sono i contagiati di oggi, non posso vedere, non so, una serie televisiva, non so, non posso ammirare un'opera d'arte perché in questo momento c'è gente al respiratore artificiale, non mi sembra così la vita è fatta di pezzetti che si giungono in una costellazione, certamente, ma quelle due ore sono state, a mio giudizio, due ore bellissime. Quindi favorevole o contrario alla chiusura del campionato? Ma certo, la chiusura del campionato. Se quella voce è, come io credo, quella di Leonardo Manera, io lo saluto sì, con amicizia. Sì, allora. Alla chiusura del campionato, certamente. La chiusura del campionato. Ma naturale, ci mancava altro. Il calcio non è un settore a parte, ci mancherebbe altro. La vita di tutti noi è talmente aggredita, è assolutamente necessario in questo momento chiudere. Giampiero, tu ne hai viste tante nella vita, questa come ti sembra rispetto, sai, ci sono tutte le generazioni dei nonni che dicono vabbè, ma abbiamo visto la guerra, la ricostruzione, poi gli anni di piombo, il terrorismo. La mia generazione ha conosciuto, per quanto mi riguarda, dall'interno in primissima fila gli anni di piombo, nel senso che quegli anni, forse per voi più giovani eccetera, in cui ne ammazzavano uno ogni giorno e ammazzavano il meglio della società italiana, quando il mio direttore a Panorama mi disse, io ero appena arrivato al lavoro la mattina, che avevano ucciso Walter Tobagi, uno dei miei amici più cari. Beh, quella è stata un'epoca tremenda e io peraltro ero coinvolto perché avevo amici e tra gli assassinati, ma anche compagni di generazione tra gli assassini, perché gli assassini erano venuti fuori dalla mia generazione, quindi è una cosa che per me fu molto stringente, emotivamente molto stringente e moralmente molto stringente, perché l'idea appunto che i miei compagni di generazione, quelli con i quali avevo diviso alcune illusioni, alcuni cerimoniali, alcuni spezzoni ideologici, si erano messi ad assassinare alla mattina gente che andava al lavoro, non era uno scherzo. Solo che qui il nemico è un po' invisibile, no? Leonardo, poi coinvolge veramente tutti. Io ricordo appunto quando c'erano gli anni di piombo, i miei genitori abitavano con me sul lago di Garda e tutte queste cose sembravano molto lontane, invece questa è una cosa che non c'è dubbio. Ma come scrive Albert Camus nel suo libro, nella peste è una malattia che tutti se la portano dentro anche se non ce l'hanno, capisci? Ecco. Sì, questo sì. Giampiero, ti sembra che tutti ci portiamo dentro anche se non ce l'abbiamo? Ecco. Eh sì. Scusami. Dal punto di vista della comunicazione, cosa ti sembra che sia successo in Italia negli ultimi giorni? Adesso si parla, deve arrivare Bertolaso, ci sono sempre gli italiani che vogliono l'uomo forte, no? La figura iconica che si insedia su un trono e chissà come risolve le questioni. Questo lo vediamo in politica, adesso lo vediamo anche in questa emergenza. Non lo so, per il resto come ti sembra la comunicazione del governo? Ma sai, come ho detto in un'altra occasione, io non mi sento nella condizione di dover dare lezioni a nessuno, perché ci siamo trovati in una situazione veramente talmente inedita, talmente imprevista, talmente totalitaria, perché abbraccia ogni particella del nostro vivere, del nostro stare al mondo, eccetera, per cui non me la sento di dare lezioni. Quello che è sicuro è che in un certo momento, direi dopo la prima settimana di contagi, malattie, eccetera, quando si è cominciato a dire e che sarà, non è altro che un'influenza, lì si è presa una cantonata gravissima. E io confesso, da non esperto, non mi sembrava di poter condividere l'umore di chi diceva che sarà mai un'influenza. È evidente che non era un'influenza. Non è un'influenza. Però non do lezioni a nessuno e non do lezioni no, a nessuno. No, ma è chiaro, ma noi spesso diciamo che devono parlare, come dire, gli esperti, i medici, gli scienziati, però certamente da uomo che ne ha viste tante, ne ha sperimentate tante sulla propria pelle, è passato attraverso diverse generazioni qualche... Ti ricordi l'asiatica, per esempio? Ti ricordi memorie? No, io ti confesso, avendo, diciamo, goduto, faccio le corna, di buona salute, ero in linea di massima un po' indifferente alle vicende. Sai, fino all'età di 50 anni o un po' più non sapevo cosa fosse la prostata, che poi mi è stata operata per un tumore, ma io sino a oltre 50 anni non sapevo cosa fosse. Io invece vorrei chiedere a Gian Piero, che cosa resterà dentro di noi di tutta questa esperienza? Se resterà qualche cosa, se in qualche cosa ci cambierà? Io penso che questa cosa dovrebbe averci insegnato la differenza tra essenziale e superfluo. La nostra società, la società dell'affluenza massmediatica, la società per cui ognuno ha in mano un telefonino con cui è in contatto con il mondo, la società dei social, è una società che si sperpera in una continua conversazione, polemica ed odio. Apprezzo molto il titolo di questo libro di Walter Veltroni, Come odiare l'odio. E allora questa maledetta abitudine spaventosa in quella che è la nostra vita pubblica, in particolare la politica, eccetera, di azzannarci per un tweet, io non partecipo perché non niente, ma insomma tanti lo fanno, azzannarsi per un tweet, beh, dopo aver visto che cos'è una condizione umana in cui muoiono a decine da un momento all'altro e non solo, come è stato detto, gli anziani, beh, insomma, distinguere tra essenziale e inessenziale dovrebbe essere una bella lezione. Una bella lezione, che si ammalano sia i bianchi che i rossi, se capisci quello che voglio dire. Speriamo assolutamente che lo si capisca e ti ringraziamo moltissimo Gian Piero Mughini per queste parole, per questa saggezza e grazie di essere stato ovviamente qui con noi. Caro Leonardo, ci dicono se è novello il melone, ti perdoniamo. Se non è novello, ma tu cosa ne sai? Ma tu avrai comprato una mezza brioche, il mezzo melone. Ma io non lo so. Ma che cavolo hai preso il melone di questi allora, tempi? Il melone. Avrai preso il mezzo melone come la mezza brioche del Bar Jimmy. Sì, esatto, proprio il mezzo melone, sì. Sì. Il mezzo melone. Saluto tutti. Vado a prendere il melone novello, sì. No? È proprio un melone industriale. C'è scritto melone industriale sulla confezione. Sì, sì, sì. Saluto tutti i liguri che giustamente mi odiano, ne odiano tra virgolette, perché ho detto che darò il pesto senz'aglio a Mattia. D'altronde non mi piace l'aglio, ecco, è come un po' te il formaggio. Io ho l'aglio, esatto, questa si cosa dell'aglio. Fare un pesto senza aglio, senza formaggio, che probabilmente c'è già. C'è il pesto vegano, non so se l'hai mai visto. Giro, sì, sì, mi chiedono tra l'altro, guarda, sfida Luchetti, melone bianco, che poi è giallo, insomma, giallo fuori e bianco dentro, o arancione, cioè quello con la buccia, no, che poi è arancione, il classico melone bianco, giallo chiaro, cioè giallo fuori di buccia e bianco dentro, quelli in sapore, bianco sì, in odore anche, in colore, insomma, praticamente. In colore, non sa di niente, sa di... per quello che lo mangio, sa lo di... mangio perché non, sa, di non sa di niente e non mi obbliga a far lavorare le papille gustative. Possono stare lì in casa anche loro, dentro il palato, come se fossero in casa senza lavorare. Praticamente polistirolo, praticamente. Sì, buono, in pratica ha lo stesso gusto dell'elisir del dottor Meazza. Tu lo mandi giù, esatto. serve, però... Comunque, no? Se avete perso del denaro con la borsa in questi giorni, bevete un bicchiere di elisir del dottor Meazza, va bene? Tutto funziona e poi dopo mandate a quel paese la vostra consulente. Dai, sentiamo le borse. 1, nessuno, 100 Milan. Milan, la pasta al pesto si fa solo a Genova, mea belì. Milan, bellissima codesta trasmissione da casa. Perché non farla sempre? Leonardo è favoloso, molto troppo sottovalutato. Ciao. No, ma infatti io lo sopravvaluto, nel senso che vorrei sopravvalutarlo dal punto di vista economico, dal punto di vista dello spazio. Sai che, Leonardo, è arrivato un messaggio davvero molto sentito da un ascoltatore che dice che vorrebbe utilizzare anche le tue ultime considerazioni, il tuo ultimo monologo per i suoi studenti, perché si è commosso. Fai commuovere le persone. A parte che è un uomo, saputo, però. Mi dispiace perché ho saputo una notizia che non avrei voluto sapere. E cioè? Pronto. Ho saputo, sì, che tu hai fatto richiesta ad Alessandra Scaglioni, la responsabile, sì, dei programmi, di mandarmi via, di licenziarmi. Mi dispiace, no, un po'. Ma non è vero! Ma cosa stai dicendo? Ma perché poi perché devi dirla in pubblico certe cose? No, insomma, al limite. Perché, insomma, tu hai una faccia pubblica e una faccia privata, e nel privato hai fatto delle pressioni alla signora Scaglioni per mandarmi via. Questo mi dispiace. Non è vero, non è vero, non lo farei mai, e comunque ti inviterei di non dirlo pubblicamente, così se me la scrivi me lo via chat. Mauro Meazza e anche Gigi Donelli. Io non so. Sai come fai a rimediare a tutto questo? Un bel boccettone di Elisir, un bel boccettone di Elisir contro il licenziamento a Radio 24. E a posto così. Va bene, dai, fammi sentire Antonio dalla provincia di Verona. Antonio, mi dicono essere un camionista. Buongiorno, Antonio. Buongiorno, tre domande veloce, perché ho il telefono alla mano. Allora, perché l'area di servizi stanno chiuso dalle 6 di sera alle 6 di mattina? E non stanno chiuso H24. Infatti, è come i bar. Però se io ho bisogno di andare in bagno alle 6 di sera, alle 6 e mezza di sera, e trovo l'area di servizio chiuso, logicamente io vado dietro al camion. E domani mattina, certo, che finisce tutto, tutta quella puzza, tutta quella urina che si atterra ai camion, si assorbisce. E poi devono stare tutti a casa... Io che faccio l'autista da Napoli, da Verona, dalla Sicilia, che parto per il nord non c'è un camion straniero, non vedo un camion straniero. A me chi me lo dice? E invece dice, gli italiani? Quando ne vuole. Le macchine come sono? Le autostrade sono piene, sono vuote? No, non sono piene, però di camion ne vedo quando ne vogliamo. Però l'autista è un cane da pecora, che non ci fermiamo tutti. Se voi dovete, voi per dire in generale, le persone che lavorano in ufficio o negli stabilimenti devono stare a casa, io perché devo circolare? Ma ha ragione Antonio, cioè è perché, Antonio, la questione è che hanno bloccato a tre quarti, no? o a 5 sesti, cioè, però hanno detto dobbiamo tenere, i trasporti sono aperti, gli approvvigionamenti. Che trasporti, Antonio? Tu che trasporti? Cenere alimentare oppure? No, per far parte della cenere alimentare, c'è un prodotto specifico, però non serve, non serve. Cioè, loro in che senso non serve? Prodotto. Cioè non è in tempi di emergenza, non serve? No. Non nel tempo di emergenza, posso mettere la mano sul fuoco. Se io prendo la viata, quindi vi dice, devo stare in quarantena a casa. Non posso stare in quarantena a casa perché se no vado a obbligare pure i miei figli, i miei nipoti con mia moglie. Sì. Non è la viata, è il coronavirus. Vabbè, Antonio ci pone una problematica seria, ma torniamo sempre lì, Leonardo. Cioè, io guarda che qua adesso, scherzando, ma sono appunto su Viale Monza, chi non è a Milano non la conosce, comunque è un'arteria di lungo scorrimento, e durante tutta la trasmissione vedo macchine. Certo, non c'è il traffico come gli altri giorni, ma non è che Milano è ferma, non è che Milano continua vivere, si muove, la gente si muove. D'altronde, se hanno dato questa disposizione, che fanno gli autisti? Che fanno gli autisti di camion, che sono quelli che ci devono portare anche l'acqua, il cibo? Cibo in giro, quelli per forza continueranno a circolare, perché a quanto pare... Però Antonio ci dice che non trasporta materiale che è indispensabile, che non so, non trasporta acqua, adesso non ce l'ha voluto dire, ma no, non trasporta un qualcosa che senza il quale non certo, si può vivere. D'altra parte, se basta l'autocertificazione per dire che si è lì per inderogabili motivi di lavoro, è anche immaginabile che ci siano tante persone che circolano, tanti camion. Questa cosa è un po' all'italiana, è innegabile, è un po' all'italiana. Sentiamo Roberto che ci chiama da Roma. Eccoci, buongiorno. Roberto. Buongiorno. Sì. Prego. Mi sono accorto di non avere una vestaglia a casa, che sarebbe comodissima per la prima volta. Sì. Devo ordinarla ora, la ordinerò su Amazon. Io la posso mandare io? Grazie. Sì, usa 70 usata, euro, 70 usata. Euro usata, sì. Mamma mia, ragazzi. Oh, quando uno perde in borsa, poi si attacca a tutto. Vai Roberto. No, niente, volevo dire due cose semplicissime, un po' divertenti, un po' da riflessione. Questa mattina ho acceso il cellulare uno stato di WhatsApp di un'amica. Ci stanno chiedendo di restare sul divano e ci lamentiamo, e i nostri nonni li chiamavano per andare in guerra con un fucile in mano. Quindi questa è una cosa, uno spunto di riflessione. Certo. La seconda cosa, mi ricordo una sua trasmissione a gennaio, Burioni disse: l'unico strumento che abbiamo è di individuare i casi positivi e di isolarli, e lo hanno preso ad insulti da tutto il mondo, da tutto. Perché non sentiamo gli scienziati e sentiamo sempre tutti i tromboni che parlano così? Mi viene una rabbia, perché se gli avessimo dato ascolto a gennaio, forse oggi non saremmo devo dire che lei ha sentito, Roberto. No, infatti noi sentiamo gli scienziati, Burioni spesso è il nostro ospite. Devo dire una cosa, che anche gli scienziati all'inizio, è vero, tutti abbiamo un po' sottovalutato, anch'io, se ho usato espressioni me ne scuso, insomma un po' di sottovalutazione, ma d'altronde uno si regola rispetto a quello che vede nella reazione della scienza. Li ha sentiti anche lei molti scienziati dire alla fine dell'intervista Manera disse: a me non è che mi ha tranquillizzato tanto questa intervista. Io ebbi la stessa sensazione, però aveva ragione lui. Quindi per il futuro sentiamo sempre di più gli scienziati e comportiamoci come... Io credo che la reazione naturale in tutti sia un po' di sottovalutazione, anche per autodifesa, no? Quando uno sente che c'è un problema, pensa: beh, non sarà così grave, non colpirà me. Quando poi invece si vede che la situazione cambia, cambia anche l'atteggiamento delle persone. Sì. Diciamo che inizialmente sì, c'è questo atteggiamento di volere pensare che il problema sia un po' lontano. Figurati quando era in Cina, no? Noi ce ne occupavamo con i collegamenti da Wuhan e ci sembrava di collegarci con delle realtà talmente lontane fisicamente che tutti noi pensavamo, ma sì, vabbè, qualcuno ci scriveva anche, ma perché vi occupate di quello che succede in Cina? Purtroppo adesso ce ne dobbiamo occupare. Tra l'altro c'è quest'altro tema, Leonardo, ma ce ne dovremmo occupare tutti i giorni per 2 ore, cioè non ce lo scrolliamo più di dosso neanche dalla mente questo virus, se continuiamo a occuparcene per 2 ore tutti i giorni. Che possiamo fare? Fai tu la scaletta di domani, per esempio, di che cosa ti vuoi occupare domani? Dai, su, forza, allora, dimmi 2 o 3 temi che vorresti affrontare. Sì. Beh, io vorrei per esempio vedere se questa emergenza è vissuta anche nel cinema porno, per esempio, come primo argomento da affrontare. Va bene, per questo c'è la redazione della Zanzara. Sì, per questo c'è la redazione della Zanzara. E comunque, ho capito, ma il tema è sempre il virus. Sì, ma il tema è sempre il virus. Ma io vorrei sapere come fanno il cinema porno a tenersi a 1 metro di distanza. Non so, bisogna essere veramente. Magari John Holmes ce la faceva. Vabbè, su questo. Vabbè, comunque è sempre, torni lì. Ti vuoi un po' staccare? No. No, poi secondo argomento metterei il consumo dei meloni nella stagione invernale. Sì. Sì, infatti Miriam Lucchetti ha detto che sarà un melone invernale quello che hai preso. Poi, come terzo veloce che c'è il traffico, la pulizia del piano cucina per farlo brillare. Questi tre farei, così spaziamo un po' in tutti gli argomenti, perché il mio è un po' di calcare che non riesco a eliminare. Traffico 1, nessuno, 100 Milan. Se le fabbriche lavorano, mi sembra normale che i camion vada a prendere le merci, o dove la mettono la roba fino al 3 di aprile. Certo, quando si è improduttivi si può, per così dire, lavorare anche da casa. Lavorare da casa, appunto. Io sono qui a casa credo che ci sia anche un politico che ci è venuto a trovare in studio, si tratta dell'onorevole Pargone del Partito Democratico, che ringraziamo, caro onorevole, anzi no, è al telefono, mi dicono, al telefono, caro, sapete, scusate, mi dovete scusare, ma io sono in queste, sono un po' confuso, io non sono in studio, non vedo la regia, vedo davanti un paio di tende, va bene. Onorevole Pargone, buongiorno, Partito Democratico. Sono in collegamento da casa mia, perché avevo un po' di febbre, sì. Ho fatto il tampone, sono risultato anch'io positivo, Milan. No, e il coronavirus è arrivato. No, onorevole, mi spiace. L'ho preso fin io, qua ho preso dove? In che senso? Piano piano, ecco, il partito lo stiamo prendendo tutti. Altro che andare in piazza schiacciati a fare le sardine, sarà meglio stare belli tranquilli a 1 metro di distanza. No, se, le sardine sono finite dopo queste. Vabbè, insomma, mi spiace, no, scusi se sorrido. Mi spiace, come sta, onorevole? Ma guarda, io sapevo di abitare in una zona rossa, ma non credevo in quel senso. Invece qua ci sono più contagiati che partigiani ormai. A noi del PD ci accusavano di non stare vicini alla gente, che non era neanche una cattiva idea. Comunque, voglio tranquillizzare gli ascoltatori, sto bene, è tutto sotto controllo, sono a casa isolato da una settimana e mi sono dovuto reinventare la giornata. Allora, già che ci sono, ne approfitto per raccontare un po' il mio diario della quarantena. Allora, va bene, mi sveglio abbastanza presto, sì. Barba, doccia, sì. Intanto sento gli audiolibri dei grandi classici, che non sono mai riuscito a leggere, che mi sembra un buon proposito. Per esempio, stamattina ho messo sull'audiolibro di Guerra e Pace. Solo che al terzo soldato russo che parlava con l'accento di Latina ho spento e sono passato ai successi della Carrara. Poi, verso le 10 faccio una bella colazione, o meno, la facevo fino a ieri perché poi ho finito i biscotti. La spesa online è intasata. E la prossima consegna me la fanno il 21 giugno, a saperlo prendevo anche i ghiaccioli. Per fortuna di caffè ne ho ancora, quindi mi preparo una bella tazza di caffè e intanto leggo i giornali. Voi vi chiederete se riesco a leggere i quotidiani di carta. Dipende dal vento, perché sì. Il mio edicolante viene tutti i giorni sotto la finestra e mi lancio una copia. Se il vento tira dalla parte giusta riesco a prenderlo, altrimenti mi contento di leggere online. Il problema è che poi mi distraggo e finisco sempre sull'Instagram della Ferragni. Insomma, ecco, è tutta una vita nuova per me. Allora, sì, ci sono dei ragazzi, io guardo tutti i social, e ci sono dei ragazzi, sì, che fanno storie durante il coronavirus. E ci ho pensato ieri mentre producevo la mucchina nella vasca da bagno. E poi l'ho pubblicata, anche tutte le mie considerazioni. Al momento ho raccolto 7 visualizzazioni e 2 like. Uno di mia moglie, like, e l'altro di Orfini. No, Orfini, eccolo. L'altro tutti i pomeriggi, sì, alle 4 io e Orfini ci vediamo via Skype per fare il punto della situazione. Sono un po' preoccupato, sì, per lui. Da quando abbiamo, sì, optato per il telelavoro, Orfini non si cambia più il pigiama. Sulla felpa ha un unicorno che salta dentro a un arcobaleno con la scritta Love is in the air. Ho provato a dirgli, ma se lo tieni pur la parte sotto, ma mettiti la camicia invece del pigiama. Va bene che siano tutti compagni, ma non compagni in stanza, è una riunione, non un pigiama party, niente. Orfini non è più lo stesso da quando lavora a casa, provi a chiedergli dettagli sull'ultimo decreto del Consiglio dei Ministri e lui ti mola lì perché deve andare a girare il ragù. Spero almeno che me ne porti un po', lo tiro su col cestino come faceva le nostre nonne in cortile. Allora Milan, adesso vado, che stasera c'è Dirty Dancing in televisione. Chiamatemi quanto volete, sapete come trovarmi. Nel frattempo mi raccomando, comportamenti responsabili, per esempio, per favore vestitevi per fare la riunione a distanza, non come fa Orsini, ecco. Che non è un bel vedere. Perché? Ah sì, perché mette il pigiama con l'unicorno. Cioè, con la riunione Orfini, con la riunione il pigiama con l'unicorno, si può vedere effettivamente. L'immagine è di un partito un po' così, ecco, un po' così. Ma facciamo, ci avvaliamo degli ultimi ritrovati tecnologici. Ecco, anche noi facciamo le riunioni via Skype. Cerchiamo di essere all'ultimo grido della tecnologia. Forse ottimismo che tra 7-8 anni passerà. No, come 7-8 anni. Comunque, caro onorevole Pargone, intanto mi dispiace, ci faccia sapere come sta, come evolve, se ha febbre, se ha i numeri verdi, dove chiamare. Ha delle piadine a casa? Le piadine, mangerà delle piadine. Sono con un melone bianco in frigorifero. Dovrò mandare qualcuno a farmi la spesa. Secondo me è mezzo melone, mezzo. So anche chi potrebbe avere l'altra metà, caro onorevole Pargone. Se c'è qualche anima buona che può venire a farmi la spesa qui a portarmi dei mezzi meloni bianchi, è il benvenuto. Ma come dei mezzi meloni bianchi? Anche lei i mezzi meloni bianchi. Va bene, onorevole Pargone, in bocca al lupo ovviamente. Ci faccia sapere, scusi se ho riso, ma non è un ridere della sua situazione di salute. Assolutamente. Ridere, disgrazia altrui non è bello, ma ormai siamo abituati che tutta l'Italia ha sempre riso della disgrazia del Partito Democratico. Anche di quelli come noi che vogliamo interpretare lo spirito di tutti gli italiani. E allora il nostro segretario è stato il primo a essere positivo, perché e io mi sono adeguato. Si calmi, che le alza la temperatura poi. No, no, che poi si alza la temperatura, poi dopo. No, non rimane. No, assolutamente. Onorevole Pargone, grazie, veramente in bocca al lupo, ci faccia sapere. Dai, la prima trasmissione da Radio Londra finisce qui. Sono le 11 tra qualche minuto, c'è il giornale alla radio, io resto a casa, questo mi ha detto il Presidente del Consiglio, io così faccio. Cari, sempre alle 9 in diretta su Radio 24. Nessuno, 100.000.